dire garante. E no, perché qualcuno ce lo deve spiegare. Se uno dice che fa il mio garante, io devo sapere che cos'è, perché se fai una cosa a me o per me, per mio conto, o comunque, cioè io devo sapere cosa garantisci, cosa, oppure sei garante di, cioè, in cosa consiste, che ruolo è? Il giornalismo deve informare, io devo aprire il giornale e devo essere informato, devo capire cosa sta succedendo, perché l'informazione dovrebbe servire a questo. Posso scegliere tutto quello che voglio e poi dopo posso andare alla cassa e dire: passa il mio garante. Safari e pagamento, cioè io non ci credo, questo è un quotidiano importantissimo italiano, e quello che ho letto è un articolo che c'è su questo giornale. Con la caccia si potrebbe incrementare il turismo. Ma questi quali leggono gli articoli che scrivono? Il parco va ormai troppo stretto per tutti questi cervi che devastano boschi e coltivazioni con serie conseguenze sul piano economico. Per ristabilire l'equilibrio, temo dovremmo cominciare ad abbatterne una parte, non indifferente. Allora, scritto sul giornale, io non ci posso credere. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Sì, fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. È molto buffo, sia sulla stampa che sul Corriere della Sera di oggi. Nelle pagine dello sport ci sono delle enormi pubblicità di orologi. Sarà un caso. E risarcite attraverso la Banca di Roma ed esportiamo armi in Cina, in Bangladesh e in Nigeria, paesi dove la legge ci proibirebbe di esportare armi perché hanno guerra ai confini. Bene, la Banca di Roma è quella che fa le transazioni maggiori. L'ha detto un comico, sarà una battuta, ma a me non fa ridere.

Violento Man, è uno forte, molto forte. Il titolo del brano è Capriccio. A tempo. Sulla testa. sintonizzato sulla frequenza della benevolenza. M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un programma vario, precario. Volete dire la vostra? Scrivetemi a gigi@gigidag.com. Passo Folk, e il titolo del brano è Passo Folk, è facile. Volete dire la vostra? Volete protestare? Potete scrivere una mail a gigi@gigidag.com. Il programma è anche vostro. Tanto se mi cacciano poi vengo a casa vostra. Mi sveglio o sonno, però buongiorno. Ho fatto un sogno di quelli porno. Mi alzo in piedi, mi corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Oh yeah. Corro intorno, mi sciacquo la faccia, se no mi addormo. Resto in fretta con la sciarpetta, incrocio il vicino ma non gli do retta. Il mio pensiero

cammino di Gigi D'Agostino. Ah, regà, c'è sta folclorista. Dai un po'. Ci porta lontano. Sì. E il disco anziano di oggi è. I don't wanna say I'm sorry. Cause I know there's nothing wrong. Don't be afraid. There's no need to worry. 'Cause my feelings for you are still strong. Ho già detto, ma la sigla va a sfumare perché devo respirare.